Ed ora un secondo test. Trovi l'intruso. Find the odd one out. Ascolti le quattro parole. Listen to the four words. Nella pausa dica quale parola è l'intruso. In the pause, say which word is the odd one out. Dopo la pausa io dico l'intruso. Ascolti. Gennaio, luglio, sabato, ottobre. Sabato. Domenica, aprile, maggio, giugno. Domenica. Lunedì, mattina, mercoledì, giovedì. Mattina. Notte, pomeriggio, gennaio, sera. Gennaio.